140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Artist First, Milano. Dietro le quinte da sempre si mette in gioco col primo disco. Dopo 35 anni da produttore di Vasco, Guido Elmi esordisce con La mia legge. Perché è una cosa che volevo fare da tempo e quindi vederla realizzata è un sogno che si avvera. Bisogna stare attenti, avere dei desideri perché poi casomai si realizzano. Quando si fa un film, si fa un disco, a volte si utilizza l'aggettivo necessario. Era un film necessario? Era un'esigenza girare questo film? Per te è stata un'esigenza fare questo disco? Un'esigenza imprescindibile, inderogabile e non rimandabile. Beh, alla fine degli anni 90 ho cominciato a scrivere canzoni per me, con testo e musica. Poi le ho mollate lì, due o tre pezzi che dopo sono stati messi anche in questo album, perché non ero convinto della mia vocalità, della mia voce, del modo di cantare. Era molto dilettantesca, molto naif. Poi un anno e mezzo fa ho scoperto che potevo cantare tipo crooner, tipo Cohen, tipo così, e quindi ho rimaneggiato anche i vecchi pezzi, li ho abbassati di due o tre tonalità e li ho resi miei, e quindi dopo ho capito che potevo fare un album. Quindi hai ripreso in mano anche pezzi che avevano quasi 20 anni, 16, fine degli anni 90. Sì, La mia legge, che è quello che dà il titolo all'album, era fatta tutta diversa, però è stata scritta alla fine degli anni 90. Tutto sugar free. Amicizia online, giornate a loop, step by step, comunque in chat, nella limousine, ascolti Charlie XCX. Io però mi aspettavo tutto da un tuo album, ma non dei riferimenti letterari così densi, non dei temi così. Mi aspettavo soprattutto sicuramente attenzione alla musica, appunto agli arrangiamenti, alla cura del vestito. Eppure c'è tutto un altro aspetto che tu hai curato molto più di tanti cantautori. Beh, io sono un appassionato di letteratura, sono un grande lettore. E quindi ho messo anche queste cose, cioè tra le righe ci sono tutti i miei amori, al di là di quelli citati proprio tipo Baudelaire o la frase di Balzac, l'eleganza come scienza, oppure Nietzsche, nessun Dio veglia più su di noi, insomma, quindi dentro c'è un po' da Dostoevsky a Bret Easton Ellis a Gerard de Nerval, tutte le mie passioni letterarie sono infilate qua e là. Che cosa dovrei fare di te adesso? Che cosa dovrei dire? Di vita che ho, se è vero che nessun Dio veglia più su di noi, se è vero che non posso obbligarti alle promesse, se è vero tutto questo. Atmosfere musicali, il jazz, il rap, un po' di metal. Sì, nella mia legge ho dovuto mettere il metal. Infatti inizio con The Devil's Scorn, il disprezzo del diavolo, no? Cioè, e quindi c'è questo testo è veramente nichilista, veramente duro. E quando uno dice: hai mai provato a svegliarti nel sangue? Hai mai provato a vomitare cocaina? Sono frasi forti, hanno bisogno di musica forte, insomma. Però sono frasi forti che può scrivere solo una persona che ha vissuto il rock da più di 30 anni. No, a parte il rock, ho vissuto anche una vita, come dico, intensa. Cioè, infatti parlo di frustate di vita intensa di questo disco. Cioè, tutto quello che ho scritto l'ho vissuto, non proprio esattamente, ma l'ho vissuto. Non posso non chiederti se temi di più il giudizio di Vasco o il giudizio dei fan di Vasco, perché i fan di Vasco sono una specie di setta. Però sono abbastanza buoni con me. Devo dire che, a parte alcune diatribe sulla scaletta, vorrei quel pezzo, vorrei quell'altro pezzo, ho un buonissimo rapporto, perché poi io dialogo molto con loro su Facebook e diciamo che in pochissimi casi si arriva all'offesa, non so, qualcosa. In genere sono desiderosi di parlare con me e poi mi devono dire la loro sulla scaletta: vorrei quel pezzo, vorrei quell'altro. Allora io cerco di spiegargli che, perché non è un jukebox e che bisogna fare uno spettacolo. E lui l'ha sentito? Io gliel'ho dato l'altra settimana, non so se l'ha sentito, me lo dirà, credo che lo vedrò nei prossimi giorni, me lo dirà. Adesso che cosa ti ha cambiato in una carriera così ricca di tutto? Questo passo cosa ti ha cambiato? Beh, non solo mi ha cambiato, mi ha dato uno stimolo per fare il mio lavoro. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Guido Elmi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.